caso dell'industria meccanica, un caso, diciamo, ma lasciamo parlare lui, è molto meglio. Auschwitz. Mache ich keine großen Sprüche hier, sondern besser reden, das viel gescheiter. Also ich sage jetzt nichts groß vorneweg, sondern lese das Ding einfach mal vor. Ja. Die Leute müssen halt sehen, wie sie mit meinem Englisch zurechtkommen. Ja. Lui lo leggerà, il testo lo legge in inglese. Ah, così. E se ci comunque è buona norma che chiunque parli in qualunque lingua, parli il più possibile lentamente, il più possibile chiaramente. Sì, è quello che... Ich glaube, ja. D'accord. Wenn das Englisch nicht gut genug ist, dann kann er ja Deutsch sprechen. Lui fa una proposta molto costruttiva, come sempre. Se l'inglese non è comprensibile, può anche parlare tedesco. Ma che. Vado. Andiamo. Good. Okay. My paper deals with the problem of interaction between technology and organization of manufacture in mechanical engineering. It has the purpose to point out the importance of technical feasibility. I don't want to deny the efficiency of other factors, but I want to show that ignoring fundamental technical correlations leads to wrong conclusions in the historical analysis. There are, for instance, a lot of misinterpretations in the so far only publication about the genesis of the German machine building industry until 1870, Schröter, Becker and so on. They do not result from a shortcoming of authentic sources, but from the non-consideration of the technical literature of the period to be inquired. The descript, in the following I'll first bring the description of the development from Schröder-Becker, then some remarks about the technological basic structure of metalworking processes and of the role of machine tools in the metal processing, and at last I'll deal with the problem of the machinery system and the relation between handwork and machine work. Maybe you could explain very shortly when this work has been published and who is Schröder and who is Becker. This work been published in 1962 in Berlin in the GDR, and it's an ensemble of two dissertations or out of the 50s, and it's the only work which tries to summarize the development of German machine building industry. The other publications about this are only Firmenschriften, wie jetzt gesagt, oder sozusagen. Also es ist die einzige zusammenfassende Darstellung der Entwicklung, und obwohl die da sehr interessante und gute Archivquellen verwendet worden sind, hat das Ding so ein paar ganz typische Fehler, und mit denen will ich mich hier so befassen. So, the description of the development. As basis for their analysis serves the three-step model of business organization. First the craftsman's shop, second step manufactory, and third step factory. Only this last one passes for an industrial type of enterprise. The craftsman's shop and the manufactory are said to be characterized by the process of manual manufacturing, where independent and single machine tools would take over only a minor service function. There is a diagram that shows this in a short. Perfetto. The single, also they say that in the craftsmanship and in the manufactory there are only independent and single machine tools which take over a minor service function, whereas in the factory there would be used a relatively uncomplicated system of machinery in the 40s, which would consist of simple and universal machine tools, the same machine tools that are used in the draftsman's shop and in the manufactory. Although the finishing of the machine parts would continue by hand, they say that the preparation of components by machine would make possible a higher productivity. From 1850 on, this simple system of machines developed into an improved one, having new style refined machine tools for special purposes. These refined machine tools are said to have worked with increasing accuracy. The authors put down the arrangement of these machines to the order of the processing operations, thus a kind of flow production. The reasons for these changes are seen with the growing complexity of the machine building products demanded. They said that the increasing demand for machine tools, steam engines and railway wagons and locomotives would lead to the beginning of the series production and thereby a larger quantity of interchangeable parts. Such products could not be produced anymore by methods of handicraft and manufactory because it would be technically impossible, so they say. The precision of processing of the machine tools would have to be raised. This would predominantly bring out machining. Finishing by hand would still be necessary in the 60s, but would become more and more superfluous. The relation of handwork and machine work concerning the shaping of the material became therefore inverted between 1850 and 1870. As a further consequence of the improved manufacturing equipment, they emphasize the refinement, that means the further division of the technological process in mechanical engineering. Now, they say, the step-by-step processing of the work products would be possible. Until the end of the 50s, three steps, that are casting, cutting and assembling, would be achieved. If you read cutting, it's not the same like to cut anything like with a pair of scissors, but it's chipping away small chips of material by a kind of chipping child. Spann abheben, also. Peter. This basic technological structure would therefore be a consequence of the changes in the machinery system, which for their part were produced by the effect of technical and economic challenge. The worker would lose his craftsman's skill within these developments and would become an appendix of the machine, this well-known formulation of Marx. Unskilled workers would work with the improved machine tools, and these workers only would dispose of a limited qualification. All that, what they say, arises a couple of questions. First, is it right that processing step by step becomes only possible with the improved machinery systems? Or do we have to describe the connection between technological division of the process and organization of manufacture differently? Second, A, what differences are between the simple and universal machine tools and those improved ones being constructed for special purposes? Second, B, can we consider the beginning series production equivalent to interchangeability and the latter also equivalent to machine finished processing? And 3A, does it correspond to the situation if we imagine a developing machinery system? 3B, how does the relation between handwork and machine work change regarding quality and quantity aspects? And 3C, is the proposition of Marx correct for mechanical engineering when he takes the worker for an appendix of the machine? The answering of these questions depends on the necessity to clarify what working operations the raw material has to pass until it reaches the finished and well-working machine, the product of machine building. Now I come to the technological basic structure of metalworking processes. The industrial mechanical engineering mainly uses metal materials, above all iron to be cast or forged, but also non-ferrous metals. This is the difference between the industrial mechanical engineering and important lines of pre-industrial machine building, where mainly wood was taken. At the same time, industrial mechanical engineering is technologically related to those lines of pre-industrial metalworking which were concerned with the production of complexer products. The final product of such metalworking processes consists in a lot of single parts being manufactured and assembled in three steps of processing. There are just a machine that's showing this three steps. The first step is manufacturing of unfinished parts by forging and casting, which are the most current working methods in this first step. In the beginning, the raw materials are available in any order and has had no definite shape. Then the raw material is changed into an approximate shape according to the part to be. In the second step, the blanks are worked on by cutting almost up to the final shape to be. And in the third step, the final product is manufactured mainly by assembling, by joining the components. This technological basic structure of metalworking processes has its deeper cause A, in the mechanical qualities of the materials, and B, in the efficiency of the working methods available. To the mechanical qualities of the materials, there is to say that normal cast iron may be shaped by casting and cutting, but not by forging. Wrought iron may be forged, but also may be worked on by cutting. Steel can be hardened and is in the following only to be worked on with difficulties. Normally, casting or forging are the shaping methods for raw shapes, whereas the more precise shape needs grinding, and grinding is not developed until the end of the 19th century. The non-ferrous alloys could be cast or cut, or both. Efficiency of working methods means to us the ratio of shaping of a definite volume of material in one operation step and the accuracy with which the shape to be is achieved. And when we look to casting, casting permits the largest change in shape. Therefore, it is suitable for the production of geometrically complicated shapes. Due to minor accuracy, the cast products have to be worked on again. Also, forging permits large changes in shape. The accuracy affected is the same or less than with casting. In comparison to casting and forging, cutting methods show an essentially low capacity of shaping. They are important though because they allow an approach to true size so that they can be taken for the finishing, beginning with raw towards very precise operation methods. When being composed, the shape of the parts in the idealistic case is not revised anymore, but the final product comes into being by joining. The parts only fit exactly if the necessary working and measuring methods in the operation process can be guaranteed, so that the wanted sizes are kept in a strict tolerance. Otherwise, and that's the normal in the 19th century, century. Otherwise, the parts of the machines have to be fitted by cutting. The assembly of the final product in the third step is therefore an intermeshing operation of cutting and joining. The basic structure given in this sheet is therefore not dependent on the use of machinery, on the level of division of labor, and on the organization of enterprise of the respective workshop. In any case, in the craftsmanship, in manufactory, and in large factories, there are always to pass the three steps of processing. Therefore, we can reply the first of the questions. The three steps of operation in mechanical engineering are not due to improved machines and increased division of labor, but they result from the characteristics of the material and the working methods. Now I come to the machine tools in metal processing. A machine tool is a machine shaping metallic materials. The tool is held and guided by a machine. The necessary relative movement between tool and material to achieve the shaping is therefore not any more dependent on the skill of the worker and on his physical power. Were the machine tools used in Germany up to the 50s simple and universal? That's the first question of this part, and we have to make distinctions if we are answering this question. Whenever machine tools were used in this time, they were imports or imitations of English machines. An analysis of their constructive body shows that they were not all that simple. In the contrary, many of them were very complex. This complexity was often put down to the plan for universal use. And if we understand by universal that a machine tool cannot only be used for one single purpose, but for many purposes, then there were also always single-purpose machines besides such multi-purpose machines in the equipment of an engineering shop. Later on I'll show another diagram, and there you can see that also in the early machine factories are special-purpose machines. What do we have of the argument that from 1850 on there have been always applied improved and more refined precise machine tools? I have said before that single purpose machines were nothing new, but obviously their use has increased a lot after 1850. But Schroeder-Becker also draw the conclusion, because of the fact of series production, that this necessarily would have to run parallel to the machining of interchangeable parts and therefore more precise machines. Like many others, they don't take into consideration the following. First, series production with interchangeable parts can be achieved by finishing by hand. That's very expensive, but you can do it. Second, series production without interchangeability of the single parts is possible. A type of machine is built in larger numbers. When assembled, the machine parts are fitted by hand and therefore are not interchangeable anymore afterwards between the single products of a series. Effects of rationalization with this method occur above all in the raw material processing. The second bunch of questions may therefore be answered as follows. 2a, in mechanical engineering, simple machine tools are used beside complicated ones. A certain share of single-purpose machines, example given screw-cutting machines, does exist from the beginning in mechanical engineering. This share has been increasing with the size of operations and with the extension of mechanical engineering since the 1830s. 2b, there are no hints in the authentic sources that, with such an essential increase of precision of manufacturing, interchangeability would be possible. and at the same time handwork would have become somewhat superfluous. I now come to the problem of machine system and the relation between handwork and machine work. The problem of machinery system and the relation between handwork and machine work is mainly limited to the second step of processing. The mechanization of metal processing occurred mainly in the manufacturing of finished parts by cutting in the second step. Only a limited number of types were, for instance, developed for shearing and punching and for forging, rolling and so on. In the foundry, the supersetting of qualified handwork only begins in the second half of the 19th century in molding. This supersetting is limited to the molding of smaller parts produced in large quantities. Molding of large machine parts is always today a very complicated and very skilled work. As for the production of finished parts, there is no connection between the rare machine tools and the first simple and then improved machinery system. This means that the first part of our third question may be answered as follows. As long as the material has to pass a certain order of steps within processing because of the technological peculiarity of the material and of the operation methods, and as long as at the same time there is no qualitative leap from the precision of operation of the machine tools towards the parts being finished by machine, the machines take over the preparatory processing by cutting. The finishing for the precise measure is done by hand. The qualitative leap towards industrial machine building at all in the Industrial Revolution will have to be traced where there have been introduced machine tools for the first time, and that has been very often in the small business in the craftsman shop. I finally would like to verify this context so far having been considered from the technological point of view. Even when you cannot exactly find out about the shares of handwork and machine work, the authentic sources permit conclusion by comparison between the machine tools existent in a workshop and the workplaces for handwork. As a mark for handwork, I took the number of vices, also Schraubstöcke sind das, ich weiß nicht, was das Italienisch heißt, to be found out. The machine work I see represented by the number of machine tools. Additionally, I'll mention devices where the step to the machine tool, has not yet been affected because the tool or the material is held and guided, is not held and guided by hand. First I'll take this. That's a summarize of about four factories and the relation between tools for handwork and devices for handwork and machinery. The first is published, is an inventory list published by Schröter Becker from the Maschinenbauanstalt zu Moabit, a machine factory in Berlin, from the first half of the 40s. In all there are 18 machines, about 15 devices and 6 devices for skilled handwork. The second is a plan of a French machine factory, De Costa in Paris. They made textile machinery and machine tools. This plan has been published in Germany in the 50s. The factory is equipped, I think, in the 40s. And the equipment is not completely described in the plans, but the plans are very detailed. I'll show one of these plans. There are 66 tools, machine tools, 30 devices, and 49 vices in this plan. Additionally, you can see in this. Additionally, you can see the typical organization according to the workshop principle. The preparation by cutting took place in departments of the workshop where groups of machines of the same working methods are combined. I have marked brown working methods in the first step, in this case forging. They had no own foundry. Very often the smaller machine factories had no own foundry. They gave founding outside and the parts came back and were machined in the factory, but they have their own forge. That's brown. All things belong to the second step of processing are marked red, and you can see there is Atelier des Tours, the turning shop, Atelier des Rapporteurs, the planning shop. There's also a shop with grindstones, but this is not very important. And you have the third step, Atelier de Montage, assembling room, and you have a lot of vices in a long row and also in the upper store. And these vices are used in connection with assembling, but also in producing parts or surfaces of parts that cannot be produced by machines. Today, this workshop principle is called workshop principle or method specialized division of labor. The arrangement of machine tools doesn't correspond to the principle of a chain like it is said by Schroeder-Becker and is also said by Marx in consideration of textile industry. This model was an ideal also for Weber, the man who published these plans in Germany, but it didn't, the model of the chain, but it didn't carry through in mechanical engineering in the 19th century. Like in Moabit, there are some single-purpose machines in this factory, and I'll take again the other sheet. You can see the milling machine they used is a milling machine for gearing, and they also use a screw cutting machine and a specialized grinding machine for textile machinery parts. And you have also in the first example Moabit, you have some single purpose machines, and in the following also. The little number of these single purpose machines should not deceive us about a more rational production process. By reducing the production of certain and repeatedly needed parts from the multi-purpose machines, they make the production process more fluently. The relation between handwork and machine work did shift, but also in the workshops, which were said to have been exemplary, and therefore these plans have been published in Germany in this time, a large proportion of handwork was normal. The third example is the plan of the workshop of Johann Zimmermann in Chemnitz, published in 1864. Here you have the same workshop principle turning shop, planning shop, boring machines and some special machines. They have their own foundry. And the forge and some other parts that are not very interesting for us in this case. Also, this plan shows that there are very much vices. They have about 65 machine tools in the floor and 77 vices, and in the upper floor there are another 46 machines which are not assigned to individual operations, and also there is a larger number of vices. If we assume that relation is the same as below, we may result in an estimation of 111 machines and 131 vices. The number of vices remains considerable. Finally, I would like to bring forth the machine factory Kappel in Chemnitz about 1890, where we have no exact numbers of machine tools and handwork places, but we have the range, the position of the professional groups working in the individual departments of operation according to the magnitude, and we have some remarks about the proportion of handwork and machine work. Skilled workers represent the largest contingent among the workers, engine fitters in the part production and in the assembly. That's position one. They are followed by the machine workers, as they are the groups of the turners, the planers and the drillers. This order corresponds to the one found out by inquiring the equipment of the first three workshops. Let us summarize. Answering question 3b, that is to say, the handwork keeps its central role within the operation process in mechanical engineering. Before 1850, handwork may have predominated in the cutting preparation of the material, but gradually is displaced by machines. The finishing by handwork, though, it means the precise fitting of the parts, is furthermore done by the more refined handwork methods, and these methods only can be employed by the high-skilled engine fitters. Without finishing by hand, one can say, apart from some extra cases, no functionable final products can be produced. This is at last done until the end of the century, and not only by German mechanical engineering. Schröder-Becker do not concentrate on these technological particularities of mechanical engineering. Instead of it, they take a factory conception derived from the textile industry and schematically employ it for metal processing. The textile mills had large staffs with a high share of low-skilled workers, women and children. All essential steps were processed by machines in the middle of the 19th century. The raw material passed through a definite order of machines determined by the necessary steps of processing until it became yarn or fabric. So we can say that the production complied with a specific material and was done by the flow principle. Schröder-Becker denied the industrial type of organization of factories which do not correspond to this model, or they manipulate their workshop organization in order to make it suitable. And coming to the question for Marx's opinion about appendix of the machinery, there are consequences concerning the demand of qualification for the worker himself, and these consequences are contrary to those found out by Schröder and Becker. Certainly there is a growing division of labor, which may lead to monotonous situations at the workplace. These monotonous situations always have an enormous repetition of simple operations, but this is not machine work in every case. This is very often handwork done in this monotonous way. The final product of mechanical engineering does entail a qualification of workers in the workshop which is predominated by the independently acting skilled worker who disposes of mechanical abilities, that means abilities of the traditional hand worker, as well as of new abilities according to the handling of the machine tools and to the complexity of the product. The efforts for rationalization on the side of the capital meet with a barrier which superficially considered could be understood as traditional stubbornness of a self-reliant working class. The deeper cause, though, is to be traced in the technological particularities of the metal processing not yet being surmounted by the technical development. There is all the time this three-step process, and there is no change in this three-step process. Those who dominate the development of the machinery therefore direct it towards a technology which makes the worker superfluous in more and more parts of the production, but this has been a slow process with many, many obstacles till today. Therefore, I come to my conclusion, being formulated in such a flat way as from Schroeder Becker, the argument of the appendix has to be refused for mechanical engineering, even if we accept it as a description of a tendency. Thank you very much. Bene, io propongo che adesso facciamo questa discussione dei tre papers e poi andiamo avanti con i due contributi di Michael Mente e Stefano Musso, e poi si mangia. Poi avremo ancora due paper per il pomeriggio. Va bene? D'accordo? Ich schlage vor, dass wir jetzt die drei ersten Paper diskutieren, soweit es uns geschehen ist, dass wir anschließend die zwei Beiträge von Michael Mente und Stefano Musso haben werden und dann werden wir wieder essen. Dann haben wir die zwei Papers von Kostelbogenleiter und ein guter Lust. Eigentlich sind wir beide, ne? Dann ist klar. Bene, domande. Prego. I wanted to ask something about drawing. In your contribution you didn't say anything about drawing. Who is drawing and what is on the drawing of the piece for the worker? Because there is a problem of the capacity of the design. Ich habe es nicht klar verstanden. Wer macht die Entwürfe? Die Zeichnung. Also das ist Konstruktion. Ja. Ja. Die Werkzeugzeichnung für die Produktion. Ja, er sagt, es sei hier nicht zur Sprache gekommen. I would like, because it has an influence on the capacity of the worker, on lecture, and then on the definition of the piece, which is given or to him as an individual or at the group. Mm. Inwieweit war auch der Arbeiter imstande, solche Zeichnungen zu lesen? Because we have that evolution in Ansaldo from the beginning of the century to the 20s of first, much more precision in the drawing. And then second, an autonomy taken by the special offices of drawers. That means a kind of appendix for the worker that has to follow very precisely the mean of production, the way of producing on the machine. Which of course presupposes that that the worker knows how. There's to There's a kind of expulsion in fact of that qualification from the worker to the drawers. or the engineer. Ich sage gleich was zu sagen. Bitte, ja. Also ich, mir ist die Sache mit dem Zeichnen bisher nicht sehr oft begegnet. Vielleicht hat der Michael Mende da etwas mehr zu sagen. Ich weiß nur, dass noch 1890 in der Fabrik ein Anreiser da war, der die Zeichnung lesen konnte, auf jeden Fall, und der auch große Maschinenstücke markiert hat. Also er hat mit dem Körner oder mit der Anreißnadel die Bearbeitungsstellen markiert. Und der Übersetzer für die, ja, und Arbeiter. Nach diesen Markierungen haben die Arbeiter dann gebohrt. Ich weiß nicht, ob zusätzlich zu diesen Markierungen noch eine vereinfachte Skizze mit im Umlauf war, die dem Arbeiter also gesagt hat, so und so sieht das aus. Bei komplizierteren Stücken könnte ich mir das vorstellen, aber bei einfacheren kleinen Stücken reicht eigentlich eine Körnung, und wenn der Meister dem Mann sagt, du musst hier Löcher 3 cm reinbohren, reicht eigentlich aus. Also ich glaube nicht, dass die Zeichnung eine sehr wesentliche Rolle in der unmittelbaren Bearbeitung gespielt hat. Ich nehme, es ist auch die Möglichkeit, die ich gelesen habe, ohne dass ich das jetzt genau festmachen kann, dass der Meister die Zeichnung hatte und mit den Arbeitern das besprochen hat, oder dass man eine Skizze gemacht hat auf eine Tafel und geklärt hat, so und so muss das gemacht werden. Aber wenn das dann festgelegt war, dann haben die Leute gebohrt und gedreht und hatten ihre Maßangaben. Il dit que pratiquement il y a le contremaître qui sait lire le dessin, ou quelqu'un spécialisé qui le fait pour les ouvriers et qui marque, qui fait des marques sur les pièces préfabriquées, et eux ensuite ils exécutent selon le dessin. En 90, oui, c'est le quatrième cas. Pour les autres cas, ils ne le savent pas exactement. Mais peut-être ce que dira Michael Mendes. Bien, facciamo in italiano, c'è un dunque c'è un ufficio specializzato per il disegno, sì, che fa il disegno, che sì, lo metto nell'officina da uno, sì, normalmente, e sì, e gli operai non leggono il disegno, non lo leggono o leggono solo un disegno molto semplificato che non corrisponde al disegno complessivo. Ma è una sua supposizione, dice che non lo sa con esattezza. Adesso sentiamo che cosa dice lui. Modelle eine große Rolle gespielt, wie auch im Dampfmaschinen- oder Lokomotivenbau. Zur Anfangszeit, da wurden die Werte, die Maße von Modellen abgenommen. Beim Schiffbau ist das bis in die 50er Jahre gemacht worden. Man hat ein Modell des Schiffskörpers gehabt. Dieses Modell wurde in mehreren Ebenen geschnitten. Von den Bundeslinien dieser Schnitte wurden über Projektionen oder, und das erst ab den 50er Jahren dieses Jahrhunderts, durch eine Optik und vorher durch eine Art Storchenschnabel, nicht, so ein Vergrößerungsgerät, die Linien auf eine Schablone übertragen. Und von der Schablone aus wurde auf dem Reisboden, Fläche mit Kreide abgetragen, und danach wurde das Stück Blech ausgeschnitten. Und ähnlich ist das bei dem Wasserturbinenbau. Da sind die großen Bogenmaße vorgegeben, die Dimensionierung. Und die einzelnen Werte über die Krümmung der Schaufeln werden vom Modell abgenommen mit Raster. Das wird heute noch so gemacht. Und zwar manuell, nicht mit elektronischen. In der Frühzeit oder auch beim Dampflokomotivenbau, praktisch bis der Dampflokomotivenbau ausgelaufen ist, in der Bundesrepublik Ende der 50er Jahre, wurde angerissen, mit Hand angerissen. Und das waren besonders qualifizierte Schlosser, die das gemacht haben, dieses Anreißen. und das auf einer großen Anfangsplatte, die das Material musste vorgefertigt sein oder gesäubert, musste klar sein. Und dann wurde es mit Tusche eingestrichen und mit der Nadel dann die Vorzeichnung, das war von der Zeichnung aus. In der Anfangszeit, wo das Maschinenhaus hier, das war in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurde entweder vom Modell oder von einer Skizze ausgearbeitet. Und es gibt immer auch bei Strecker-Beckers das zitierte Beispiel, dass mit Kreide auf ein Stück Holz oder eine Platte hier herumlag. Ich glaube, man muss sich das nicht so provisorisch vorstellen. Oder auf einer Schultafel, das skizziert wurde, mit der Bemaßung und davon dann die Werte übertragen wurden auf das Werkstück. Ich habe solche Tafeln, also Kreidezeichnungen, noch gesehen auf Bildern aus den 80er Jahren, 90er Jahren, aus dem Maschinenbau, aus dem Dampflokomotivenbau. Aber im Dampflokomotivenbau zu der Zeit gab es eine ganze Hierarchie von Zeichnungen, Gesamtzeichnungen und bis heute Detailzeichnungen. Weil die Lokomotive so kompliziert war, so viele Teile enthielt, dass man die als Einzelner gar nicht verwickeln konnte und als taktikumsstrukturierendes Mittel sie keine Funktion gehabt hätte. Io adesso per la traduzione ho mille difficoltà, ma in ogni caso dice che fino agli anni 50 di questo secolo, nella costruzione navale, nel settore, nella costruzione delle turbine, furono fatti modelli, e di questi modelli poi furono fatti disegni più semplificati per quelli che eseguivano. Usando anche per le locomotive, per esempio, c'era un disegno complessivo e poi ci furono disegni delle singole parti che poi nel atelier stesso spesso furono fatti su un tavolo per gli operai scritti così in modo molto provvisorio. Poi c'era un tipo di operaio altamente qualificato che doveva marcare poi il materiale stesso, per esempio le lamiere e tutto questo, con le dimensioni del modello o del disegno originale. Io l'ho tradotto molto male, l'ho capito in tedesco, ma non so tradurlo molto bene in italiano. Vielleicht wird es schon einmal sehen können, dass da auf dem Werk, also in der Werkstatt, die Arbeiter mit der Zeichnung bei der Drehbank standen. Das ist eine akademische Vorstellung. Dieser Anreiter war in der Werkstatt, das war kein Meister, das war ein Spezialisierter, der nichts anderes gemacht hat, als von den Zeichnungen umgesetzt hat, markiert hat. Und da haben die Leute das Stück geholt und haben gearbeitet. Dunque, non è che ogni operaio poi avesse avuto il disegno accanto. C'era un operaio altamente qualificato che marcava i pezzi con le misure giuste, no? E lui sapeva leggere il disegno. Sì, ma il problema è il numero di questi operai altamente qualificati, perché non so, se vedo anche per un stato ce n'è un bel numero. Non è perché, ma non lo so, direi che sono forse in certi 10%, 15%. Non è uno in un'officina dove c'è un centinaio di operai non qualificati. Zum Beispiel bei Herrn Salve in dieser speziellen Situation des Heavy Engineering, seiner Meinung nach eine relativ hohe Zahl von Leuten, die diese Zeichnung dann übertragen haben und gelesen haben. Also nicht nur einer pro Werkstatt. Das ist von der Vielfalt, also dort ist eine große Vielfalt ganz verschiedener Stücke. In der Lui dice che è una conseguenza immediata della produzione in serie o no, dove si produceva interi, e naturalmente avevano bisogno meno di questa gente, perché c'era sempre la stessa serie, per esempio anche nella produzione delle locomotive. Lui ha studiato, ha menzionato specialmente la produzione delle locomotive negli anni 80 del secolo scorso, e si faceva fino agli anni 50 di questo secolo, quando si finiva con la produzione delle locomotive a vapore. Ah, sì. Poi prima te, perché te ti sei già fatto vivo prima. Paolo Coppi. Era una domanda su un assalto, per capire un pochino anche questa struttura di relazioni interne, e se c'era effettivamente una manifestazione disciplinata, come diceva il era sul piano proprio della emozione, delle caratteristiche di un'intera nazione. Io ricordo, adesso non molto da ragazzo, uno scritto dell'ingegnere Arcetrio, mi pare sull'economista d'Italia, intorno agli anni 70, che guardando, facendo una descrizione comparativa dell'industria siderurgica meccanica, dell'industria meccanica italiana rispetto a quella inglese, ravvisava la debolezza del nostro sistema industriale, sempre la meccanica, proprio in questa capacità di cambiamento, in un certo senso, in questa forma di provvisorietà. In effetti, le serie parti di un'industria, di un'officina, erano adattabili, cioè c'era un sistema tale, dato per essere cambiato anche l'organizzazione delle stesse macchine, l'organizzazione dei quadri. Cioè dove si poteva adattare? In Italia o in Inghilterra? In Italia, sì. In Italia, in maniera tale da risolvere tutti i problemi che venivano fuori da un informe tipo di prodotto. Questo naturalmente però aumenta il costo, ovviamente. Secondo me il discorso di Arcetrio si inseriva, coglieva una parte del problema, perché ovviamente il discorso era della domanda. Il sistema di cambiamento, appunto, il sistema di questa forte strutturazione, l'autonomia delle officine, cioè dei singoli momenti officine, rispondeva al problema delle commesse. In effetti la commessa rappresentava la base dell'organizzazione industriale della meccanica, soprattutto milanese, adesso in mente la Schlegel, in mente la Bondona, eccetera, l'elettrica, che aveva il problema di adattarsi, di adattare l'organizzazione del lavoro alla commessa, piuttosto che creare i processi di organizzazione industriale, e quindi guardando al costo, alla dimensione del costo, offrire dei prodotti unificati per un mercato più ampio. E questa è il punto della debolezza. Ora mi pare che l'assalto su questo piano non è che si ripone da questo tipo di ipotesi di Arcetrio, mi pare proprio che proprio dalla commessa è in un certo senso influenzato anche il tipo di organizzazione così intercambiabile della sua struttura. Sì, direi di sì, ma si deve dire che in questo decennio degli anni 60 e 70 non è una situazione così, così positiva. Poi è una abbastanza piccola azienda a livello europeo, cantiere navale e meccanico fanno 600-700, dunque è una cosa molto ridotta, diciamo, in paragone con lo sviluppo del secolo successivo. E dunque certamente condivido la sua opinione. Il fatto che hanno bisogno di avere delle commesse diverse implicano una certa organizzazione dei lavori, e per di più sono dipendenti della struttura della manodopera qualificata di cui hanno bisogno, su cui non si può giocare molto. Non è che si trova così facilmente operai e meccanici molto qualificati dappertutto. Wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, Gaudio Coppola hat das Beispiel eines Aufsatzes aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts erwähnt, in dem ein italienischer Ingenieur die britischen und die italienischen Zustände im Maschinenbau miteinander vergleicht und eben darauf hinweist, dass der italienische Betrieb, davon mal abgesehen, dass er viel kleiner ist, auch sehr viel flexibler ist, das heißt, er ist weniger spezialisiert. Und er führt es eben auf diese andere Struktur der Nachfrage zurück, eine Nachfrage, die eben unregelmäßig ist, die rein vom Volumen her mit der britischen nicht standhalten kann. Und damit war Anhalt der Werft im Wesentlichen, was ein Saldo betrifft, das in den 70er Jahren etwa 500 bis 600 Arbeiter hatte, einverstanden. Ja, dazu kann man aber nur sagen, dass vielleicht den Betrachtern in England so manches entgangen ist. Spezialisierte Maschinenbaubetriebe war nicht die Regel. Die standen immer auf so vielen Füßen, dass sie dann darüber auch stolperten, weil der Markt nicht groß genug war. Hauptsächlich in den, also jetzt außerhalb des Lokomotivbaus, sagen wir. Aber sonst Maschinenbaubetrieb so von der, vom Spielzeug bis zur Lokomotive ungefähr. Also große Variabilität von Produkten ist der Regel auch im europäischen Maschinenbau. Dice che il caso britannico poi non è tanto diverso, cioè che a parte la produzione delle locomotive dove si può produrre dove si fa un prodotto relativamente complesso a serie già, negli altri campi anche l'industria meccanica inglese ha imprese di dimensioni piuttosto ridotte e molto non tanto specializzate in questi anni. Dunque questo sembra che sia quello che si è visto ultimamente studiando un po' questo settore anche in Gran Bretagna. Ich möchte was zum Referat von Herrn Romano loswerden und zu dem letzten auch. Vorher kommt aber noch Ulrich Wengenroth dran, der hat sie nämlich vorhin schon. Ja, bitte, bitte. Bitte. Since English seems to be best understood after all, I'll ask my question in English. Question to Romano and to the Andrago paper. Putting our paper in weaving, you said that the entrepreneurs didn't want to tie themselves to fixed capital, which is why they have this putting out labor, and the beaver owes his means of production. I found a lot of evidence that the beaver did not have his means of production, but he had to pay the rent for this. I found this in Saint-Étienne, they said, Basel, Switzerland, and various regions where he hired at one point. The other is a question on the impact of electrification in both textile industry and Anzado. There are lots of evidences that with the incoming of electrification, a renewed decentralization set in Berlin, and evidence was given to Italy by Lungonelli, the example of Prato. A couple of weeks ago, when he said in Prato, electrification intensified, putting out labor in intensified home industry. Did this happen too here in the region of Northern Italy or not? There is evidence that it did intensify home industry in Germany, France, and Switzerland. Now to electrification in the case of Anzaldo, the plan of 97 does not show an electric car plan, the plan of 09 shows it. And the photographs you reproduced show that there was belt-driven machinery in the turning shop with all the small machines. It was belt-driven. Whether this was driven by a steam engine or a central electric motor is not very important. But the pictures of the medium-sized machines do show very few belts. Belts only for small turning machines on the side, while the big machines very much look like individually electric-driven machines. Did this electrification of Anzaldo change the organization of production flux, or was it of no importance? Was it just changing the means of energy transport, or did it change the outlay of the world? And what did the final note, what importance has electric illumination? Because in all the pictures you can see electric arc illumination in the workshops. Workshops which were older than electric illumination. So maybe we first read the Azzardo case and then we go to Roberto Romano's paper. Sì, non si sa molto della situazione al di fuori di queste planimetrie e dell'organizzazione interna dal punto di vista del potere energetico. Dunque, non saprei veramente fare l'analisi da un punto all'altro. Posso dire infatti che a questo livello, all'inizio del secolo, a me non pare che ci sia una mutazione globale della struttura della produzione. E infatti è vero che c'è anche c'è anche elettricità su macchine speciali, e poi mi pare che alla fine degli anni 10, infatti, la centrale elettrica che è stata rifatta dà quasi l'insieme del potere elettrico. And English companies, we can work longer in the evening because they have electric light. Yes, they do. They do work. No. There was no electric light until there was no electric light in 1997 because on the plan there's no electric power station in 1997. Yeah. But there must have been electric light afterwards. And did this change the organization of labor? Did they work longer in the evening? Yeah. So they worked longer than five. They didn't work longer than five before. Yes. But they could have got the electric light just for illumination from the Officine Elettrica Genovese, from the local power plant. Okay, how about that? At Anzano, for electric arc light. For 1870, we don't know. We don't. I doubt it. I doubt. You doubt it? Yes, I doubt that the power plant could provide electricity for electric arc light of the whole company. It's a very big one. I don't remember the number, but it's a very big one. And they have another one in Cornigliano. So there's a Officine Elettrica. They had a power plant in San Pio d'Arena. Yes, but there is a network, an electrical network from Sestri Ponente, Cornigliano, and San Pio d'Arena, con trasferti tra l'una all'altra, ma questo per per il periodo dell'inizio del secolo, non per gli interventi su qui. In 1898, I mean the general way is first an individual electric power plant in the company, and then you give it up because electricity is cheaper on the big plant. So your argument would stand upside down. Yes, you're a big complex to start with an old power plant, and the big power plant. Yes, the Officine Elettrica Genovese constructs its first power plant in 1896. I happen to know it. Yes, well, I would guess this was for what purpose? For two reasons, for the electric tramways and for illumination in general. Yes, but was that enough for illumination in Antarctica? I don't know. If you count the number of arcs manned in one workshop, I mean, this is tremendous what they consume. They are not supposed to work after 6, the whole factory. They are not supposed, but you have lavoro straordinario for 10%. But if they had to deliver on time, it makes sense to have electric lights to work longer hours. Yes, of course. Who can deliver on time without additional hours? We can. Well, okay. Look at our own scientific work. We always have to work through the night. Poor guys. Yes. The problem is that den Strom von der örtlichen Gesellschaft bekommen hat oder ob sie schon die eigene Elektrizität gebaut hat. Sicher ist es, das hat Herr Wengelhorn auch auf der Zeitung gesehen, ab 1998. Ab 1998 ist das Kraftwerk im Plan, im 87er Plan. Er sagt, es gab also für gerade, da es sich um staatliche Aufträge handelt, bei denen der Faktor Zeit eine Rolle spielte, gab es ständig Überstunden, die eben abends abgeleitet werden mussten. Ja, davon war er nicht gegangen. No, adesso te. Se mi traduci la domanda che fa. Sì. Lui voleva sapere quello che ti aveva già chiesto in modo informale, se il sistema del putting out, cioè decentralizzato, per esempio della Caprotti, in questo sistema l'operaio aveva la proprietà del telaio o no, e poi seconda questione a quale punto fu introdotto l'elettricità come forza motrice nella ditta, e anche se questa elettricità come forza per l'illuminazione ha permesso di introdurre nuovi turni, di prolungare le ore di lavoro, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che la tesi italiana è stato un argomento importante questo, no? Poi io non ho capito la sua domanda più importante, adesso me l'ha detto, che se l'elettrificazione poi dagli anni 90 in poi ha di nuovo contribuito ad una nuova decentralizzazione del lavoro possibile a causa di queste elettrificazioni, come Lungonelli in un paper che ha fatto per questa conferenza a Terni ha potuto dimostrare sul caso Pratese, cioè che adesso di nuovo il lavoro a domicilio in certi casi diventa possibile o redditizio. No, adesso, nel periodo delle piccole, dei motori elettrici, dopo il turno del secolo, ovviamente. Allora, la prima domanda sulla proprietà dei telai, direi, in linea generale, si può dire che in Italia era molto diffusa la proprietà del telaio a domicilio, perché erano strumenti abbastanza primitivi, erano fatti di legno, costruiti da falegnami, e quindi era raggiungibile anche per un contadino poter acquistare un telaio di questa parte. Nel caso specifico della Caprotti non è possibile appunto dare una risposta precisa, perché nei bilanci della Caprotti non venivano segnati, non veniva segnato i telai a mano, no? Anche se ne avevano la proprietà, non lo segnavano sul bilancio. Perché anche i bilanci fanno parte appunto della primitività, no? Anche il sistema contabile, dell'impresa risente di questa primitività. Quindi è possibile che la Caprotti avesse la proprietà perlomeno di una parte dei telai, ma che non le mettesse in bilancio, perché il bilancio raggruppava solo le voci dei debiti e dei crediti fino al massimo. E il valore degli impianti. E non si metteva nel valore degli impianti. Ah, il valore degli impianti non c'era neanche sul bilancio. Ma che bilancio era? Ma non era solo, io praticamente non era solo la visto anche, soprattutto veramente nel periodo di unità, c'è una tesi che hanno fatto appunto sulla gente di Stella, la miena, anche i bilanci erano di questo tipo. Patrimoniali. Ma neanche il patrimoniale, perché appunto mancava il valore del capitale fisso, o addirittura se il capitale fisso era messo invariato addirittura per 10-20 anni. Senza la riapportamento. Questo è un fenomeno europeo, non è un fenomeno solo italiano. Addirittura quello di non metterlo, quindi è difficile. In base alla situazione generale direi che perlomeno gran parte di questi operai dovevano essere dei contadini. L'altra domanda sull'elettrificazione. Anche in questo la Caprotti segue in generale l'evoluzione di tutta l'industria cotoniera italiana, e cioè quella di attorno agli anni Ottanta di procedere alle elettrificazioni sempre come illuminazione, come illuminazione elettrica. Sì. Questa illuminazione elettrica, per le stesse dichiarazioni degli imprenditori di lettere, di privati che ho trovato, un po' meno nelle fonti pubbliche, perché nelle fonti pubbliche l'illuminazione era vista come un fatto di progresso anche dagli stessi industriali, nelle fonti private interne invece si dice abbastanza chiaramente che l'illuminazione è un sistema appunto per consentire una maggiore efficienza del lavoro notturno, non tanto il lavoro notturno in sé, perché il lavoro notturno veniva fatto lo stesso anche prima dell'illuminazione elettrica, con lampade e altri sistemi a gas, o addirittura prima ancora il petrolio. Solo che la maggiore, sembra appunto che la maggior potere illuminante della luce elettrica consentisse appunto una maggiore efficienza e produttività, perché i lavoratori potevano lavorare in condizioni migliori dal punto di vista della luce. C'era anche il pericolo diminuito di incendi. Anche per il pericolo di incendi. In queste fabbriche è molto importante. Gli incendi avvenivano lo stesso veramente anche dopo, anche perché c'era una pratica dei cotonieri, erano chiamati dietro mica, erano i cotonieri, perché spesso i cotonieri italiani, spesso insomma, ci sono stati locali, no, c'era questo nome di dietro mica, perché in certi casi procedevano all'incendio del proprio stabilimento per riscuotere l'assicurazione. Questo lo fanno i contadini ancora oggi. Ma no, si vede anche questo è un dettaglio della cultura contadina. Mentre invece l'altra parte dell'identificazione che riguarda la forza motrice, cioè l'identificazione degli impianti generalmente avviene molto più tardi, cioè dall'inizio del Novecento, nel tuo caso dei Caprotti, per esempio? Anche nel caso dei Caprotti, comunque in moltissime altre imprese ho visto avviene appunto risolto all'inizio del Novecento. Casi appunto negli anni 90 sono già molto più rari. Direi che tende a diventare sempre più diffusa all'inizio del Novecento, anche se questo non esclude l'utilizzazione ancora in piena età giuliana della forza motrice idraulica e della forza motrice a vapore, anche se, come ho scritto nel riassunto, l'evoluzione dal punto di vista della forza motrice a grandi linee dell'industria cotoniera italiana è questa, cioè forza motrice idraulica fino all'inizio, poi per l'insufficienza della forza motrice idraulica l'uso della forza motrice a vapore, e poi appunto dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento l'uso sempre della forza idraulica, perché viene utilizzata alla partenza la forza idraulica, ma trasformata in elettricità, cioè l'uso della forza idroelettrica. E da questo anche si spiega un certo spostamento all'inizio che esiste all'inizio del Novecento, spostamento di localizzazione di varie imprese, di nascita di nuove imprese, questo spostamento di nascita di nuove imprese in zone particolarmente ricche di forza idraulica, come possono essere appunto le valli bergamasche o bresciane, che hanno la loro piccola centrale elettrica, poi che hanno la loro piccola addirittura grande perché anzi forse l'elettricità è uno di quei campi che spinge molti cotonieri a impegnarsi al di fuori del proprio settore, come il caso più evidente è quello dei Crespi, della loro centrale appunto nel Bergamasco, che porta appunto poi i Crespi, il ramo di Benigno, cioè quello del Corriere della Sera, a diventare anche un blocco industriale che fornire elettricità a terzi, non solo sì, a sì, sì. No? Ecco, però aveva chiesto se c'erano state modificazioni. No, io penso che questo sia più o meno tutto. Sì. L'ultima questione che io naturalmente ho dimenticato, il problema della elettricità come fattore di nuovo decentralizzante, cioè. Dunque, nella propaganda del tempo l'elettricità come possibilità di appunto ritornare alla lavorazione a domicilio. Sì. In forme più vicenti era molto diffuso, no? Anche per motivi di tipo sociale e politico, perché voleva dire evitare le grandi produzioni di operai e la lotta di classe. Però direi che nel caso dell'industria cotoniera, fino almeno alla prima guerra mondiale, non si assiste a un fenomeno di questo tipo, cioè non c'è uno spostamento delle lavorazioni dalla fabbrica al lavoro di domicilio. Anzi, direi che proprio l'effetto richiamo dell'industria cotoniera, ecco, in questo caso proprio si verifica l'aspetto del progresso inarrestabile, cioè del progresso che va avanti, il progresso. Verso l'unità sempre più grande. Si assiste proprio invece addirittura a un ampliamento straordinario, eccessivo e in un certo senso folle degli impianti in fabbrica, non degli impianti domicilio, no? Sì. Direi appunto che questo fenomeno non è riscontrabile. Ci sono le fabbriche che crescono e aumentano sempre di più i macchinari, fino a portare anche a gravissimi di sovrapproduzione a partire in particolare dal 1906. Sì. Gut, also um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, die letzte Frage, was die Dezentralisierung betrifft, letztendlich die Kaufmannindustrie nicht gab zwar bis zu mir geweckt. Es gab die große ideologische Welle der Dezentralisierung, die überall verkündet wurde. Aber man darf hier eben nicht die Wünsche oder die Wunschvorstellungen für die Realität nehmen. Im Gegenteil, die Unternehmen, die Betriebsgrößen wachsen ständig bis zu mir geweckt. Ja. Das weiß ich auch noch, was danach gut, aber das ist ja nicht mehr schön. Das muss man eben nicht. Ich glaube, dann die Falle war das, aber das noch im Zweiten Weltkrieg. Aber gut, genau. Nächstes Problem, die Elektrifizierung. Hier lässt sich also feststellen, dass in den 80er Jahren Gasbeleuchtung und ähnliches durch elektrische Beleuchtung abgelöst wird, in den Baumwollbetrieben. Aber dass die Elektrizität als Antriebskraft erst nach der Jahrhundertwende einsetzt, wo jetzt eben sehr viele Wasserkraft Zentralen, die Unternehmen hatten, traditionell, in verschiedenen Fällen wird jetzt sogar dann, außer da es sich als Lohnen erweist, produziert dann die elektrische Zentrale für das Unternehmen auch für Dritte, für Außenstehende dann noch mit. Und man hat also im Falle von verschiedenen Unternehmerfamilien dann sogar einen Übergang in die Elektrizitätsproduktion festgestellt, die also immer mehr aus dem Baumwollsektor rausgehen und immer mehr in die Elektrizitätsbranche reinbringen, wenn sie es offensichtlich. Sie haben eben die Wasserrechte, haben sie, und es lohnt sich dann eben große Zentralen zu bauen. Was jetzt die erste Frage betrifft, ist das Eigentum als den Weg stellen. So kann er in seinem Fall feststellen, er vermutet, dass immer noch in der Mehrzahl der Fälle im Italien des 19. Jahrhunderts, also so etwa bis in die 70er, 80er Jahre hinein, die Produzenten selbst, das heißt die Bauern in diesem Fall, diese relativ einfachen, hölzernen Webstühle selbst besessen haben, denn die konnte ja auch der Ortsansässige Zimmermann herstellen. Im Falle der Kartoffel, also dieser Firma, die er detailliert untersucht hat, anhand der Familienarchiv, lässt sich nicht feststellen, weil die eine derart rudimentäre Bilanzierungsmethode hatten, dass man nicht einmal die fixen Investitionen, das fixe Kapital für den Kalt wurde. Und in vielen anderen Fällen war zwar das fixe Kapital drin, aber es wurde nie, und das ist ja in Deutschland in vielen Fällen gar nicht anders, nie abgeschrieben. Oder Jahrzehnte dafür, Jahre lang. Also das mit dem, warum das dezentralisierte Manufaktur sein sollte, das lassen wir weg, weil das jetzt so eine Begriffsfrage ist, das scheint so ein typischer, klassischer Verlag zu sein. Aber das andere ist wieder Ungleichheit der Unternehmen. Ja. Also, dem nach, was ich verstanden oder missverstanden habe aus dem Referat, weiß ich nicht. Aus seinem? Ja, haben Sie grobe Ware produziert? Ja, das hast du sicher. Das hat sind sich alle einig. Und es zeigt also von einer großen Unreife von Unternehmen, wenn er sich dann Mühlmaschinen anschafft für so etwas. Weil die Mühlmaschinen haben ihren Sektor hauptsächlich in der Feinspinnerei für feine, ganz feine, hohe Gassen. Das heißt also, das heißt so, dass die Kenntnis dessen, was passt und nicht passt. Die zweite Frage, die ich habe, haben die automatische Mühlen gekauft oder halbautomatische? Weil wenn sie dann halbautomatisch gekauft haben, dann waren die erst nicht die Schwierigkeiten. Also das ist die Frage, mir scheint das so, weil offensichtlich haben sich die Produkte nicht umgestellt. Und dann wäre es sinnvoller, in der zweiten Anschauung sind Leute in grobe Spinnerei sind direkt auf Richtspinnmaschinen gegangen. Und das scheint mir also so zu bestätigen, dass da von der Unternehmerseite her bei der Planung so irgendwie diese mit großen Unkenntnissen an die Sache herangegangen ist. Und das können Sie auch sagen, dass die Maschinenfabrikanten den Sachen angedreht haben, die sogar. Genau, ja, aber da muss ja auf der andere Seite das angedreht ist, von dem nichts verstehen. Ja, klar. Braucht man immer zwei. Das zweite ist, dass das verleitet sich auf die Vermutung, aber das ist nur eine Frage jetzt. Gibt es da eventuell so Steuernachlässe und andere Art von indirekter Förderung, wenn man sowas da gründet, dass da so ein. Dass man sich so in so etwas ohne große Planung stürzt, das ist eine Frage, weiß ich nicht, ob es gab. Und das Dritte ist mit diesem Problem, das ist ein allgemeineres, wurde also betont, dass nun Industrialisierung nicht nur ein technisches Problem ist, sondern ein soziales und so weiter. Ich meine, dass diese Formulierung finde ich ein bisschen allergisch, weil es immer voraussetzt, dass man meint, dass Technik nichts Soziales ist, dass die technische Entwicklung nicht ein Ergebnis eines sozialen Prozesses ist. Und das ist eben der alte Technikbegriff, nicht? Also etwas Unabhängiges und irgendwo entwickelt und dann kommt das rein. Weil ich meine, dass diesen Technikbegriff sollte man vielleicht meiden, weil wenn man davon ausgeht, dass Technik ebenso ein Produkt sozialökonomischer Bedingungen ist, dann ist es selbstverständlich, auch Industrialisierung ist ein sozialökonomischer Prozess und da gibt es so verschiedene Schwerpunkte, die man setzen kann. Aber ich würde das nicht so abgeben, Technik von Gesellschaft und Ökonomie, weil das kommt dann in einer solchen Dreigliederung, wird das ungewollt eigentlich getrennt. Ja. Also diese drei Fragen nur kurz, weil die Zeit ist immer kürzer, wobei mich am meisten da dieses Problem mit den Maschinen interessiert, warum die überhaupt angefangen haben. Scheint, dass die Unternehmer da nicht besonders erleuchtet waren. Lui si chiede, tu hai parlato non solo dell'immaturità degli operai, ma anche degli imprenditori. E lui si chiede perché ad un certo punto poi hanno introdotto questi macchinari che ovviamente all'inizio non sapevano a mai fare. Cioè, per esempio, se producevano come tessuti cose piuttosto semplici, e questo sarà senz'altro stato il caso, l'hai detto anche te, perché hanno poi usato i mules e poi perché che erano adatti soprattutto per i tipi più raffinati di tessuti più fini, no? E poi man kann alles machen aus der Mule, auch grobe. Man kann alles, ja. Aber es ist unzweckmäßig, wenn die Maschinen grobe aus Mule. Dice che puoi fare tutto con i mules, no? Solo che come investimento è veramente redditizio solo per i tessuti più pregiati. Mute non sono fusi. No, no, fusi no. Questo Mute. E questo dice. Tu pensisti che no, di spina la io lo attivevo. No, di spina era io, non ma ci devi immaginare. Sì, Parliamo della auto mini, scusami, io ho spiegato male. Si parla del caso della auto mini, cioè non di una tessitura ma di una filatura. E te avevi detto che avevano cominciato con i mules, no? Con quale sistema hanno cominciato? Io adesso non vorrei entrare in troppo particolari tecnologici perché non ne ho la competenza, sì. Non è che posso fare adesso una disposizione sul rendimento comunque di pisentecting e poi di green. Il solo fattore sono dato in giro, non è consumare, il solo fattore sono mi sotto si smane gioia. Sì, e lui si chiede perché vende snappi auto. Si chiede perché prima il self-acting, poi il ring, è cambiata la qualità del prodotto nel frattempo, cioè il mercato ha richiesto un prodotto più elaborato. È quello che hai detto tu, cioè il mercato c'è una molto lenta evoluzione delle cotoniere italiane dagli anni 30 dell'Ottocento, quando comincia a sorgere, fino appunto alla prima guerra mondiale. Sì. Per cui, mentre all'inizio ci si basa su prodotti molto, diciamo, molto rozzi, sì. Poi andando avanti si cerca di produrre anche degli articoli un pochino più pregiati, soprattutto grazie al protezionismo, al sistema protezionismo. Alla tariffa dell'87, 78-87, che proteggono in maniera enorme, si può dire, soprattutto i tessuti più pregiati, no? Quindi da questo punto di vista il fatto gli industriali comuni italiani potevano produrre e hanno cominciato a produrre anche tessuti un po' più pregiati, anche se i loro costi poi appunto per la disorganizzazione, l'efficienza e l'esperienza potevano essere più alti di quelli delle fabbriche estere, ma questa parte di costo in più era ricompensata dal prezzo ancora più alto che avevano i prodotti stranieri che venivano importati in Italia grazie appunto al regime doganale. E più lancia den Übergang zu höheren Qualitäten, vor allem auf den verschärften Protektionismus zur Tarif von 1878, dann vor allem von 1887, der jetzt auch die feineren Qualitäten schützt. Ja, aber sehen wir, widerspricht, dass Sie ja zuerst angefangen haben und dann auch zu irgendwelchen Maschinen übergegangen sind. Aber das ist dann wahrscheinlich das Problem, dass sich den Arbeitern auf den Nurmaschinen schwierig hat. Möglicherweise. Wenn nicht anders, weil das ist eine Fehlinvestition, ansonsten in so kurzer Zeit. Bei Schindereien haben wir zum Zweiten Weltkrieg noch mit Satzfaktoren gearbeitet. No, il suo Problem ist, che non capisce perché poi hanno cambiato il self-acting. Perché la domanda di tessuti, le filature fornivano filati in gran parte all'industria, alla tessitura in Italia, sì. In parte la esportavano, ma quelli filati erano piuttosto bassi. Sì. Fornivano questi filati all'industria della tessitura, in questi circa 40-50 anni, cioè dal 60 al 1910, voglio dire. C'è stata, come ho detto prima, un'evoluzione, maggiore produzione di tessuti leggermente più pregiati e quindi naturalmente da parte delle tessiture c'era una domanda di filati di migliore qualità. In questo senso era una risposta a una domanda che veniva dalle tessiture. Er sagte eben, dass die Weberei ein höherwertiges Produkt vorankam. Deshalb mussten sie sich in der Technik auch anpassen. Sein Argument. Ja, dann muss es umgekehrt werden. Das ist ja auch in den 19. Jahren. Also, diese Stadtländer, diese Textile, könnte das Problem auch nochmal in Frage stellen. Außer von Barrieren gibt es auch andere Subventionen da. Chiede se ci sono, accanto alla protezione doganale, ci sono altri fattori, nel caso dell'industria tessile, per esempio incentivi fiscali, eccetera, per la fondazione e lo sviluppo di certe imprese. Tu come lo vedi? Io conosco l'esempio della Saronno, una fabbrica per locomotori, loro hanno investito in questo comune, quello l'ho trovato poco tempo fa a Roma, all'archivio centrale, perché il comune di Saronno lo prometteva loro l'esenzione delle tasse comunali per 10 anni. Te nel tuo caso... Direi da quel punto di vista, direi di no, perché l'industria cotoniera ha avuto enormi favori dallo Stato dal punto di vista delle tariffe doganali. Sì, perché le tariffe doganali coprivano anche i bilanci e i tessuti di bassa qualità, non per meno, ma li coprivano, continuavano a coprirli. Per cui direi che le fabbriche italiane venivano a un certo punto a godere, non è che avessero diminuito parecchio i prezzi, no? Anche se ormai avevano raggiunto una certa abilità nel produrre bilanci e tessuti di una certa di basso tipo, ma venivano ancora protetti, quindi i filati e i tessuti esteri di bassa qualità venivano a costare sempre molto di più, perché erano ancora prodotti. Quindi questo è un favore, non è un favore da poco, no? Però dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, dagli studi che ho fatto io, direi che non si possa parlare di agevolazioni, perché perlomeno se si guarda al fatto dei continui litigi e sollevazioni da parte industriale nei confronti dell'unica tassa che in fondo era colpiva le imprese, che era la tassa di ricchezza mobile, no? Naturalmente è chiaro che gli industriali tendevano a pagare il meno possibile, no? Però il fatto che ci sia questa continua, perché io l'ho riscontrata appunto vuol dire da due capi nella prima guerra mondiale, quindi c'è una continua conflittualità tra uffici delle tasse e industriali cotonieri. Quindi da questo forse si dovrebbe dedurre che non è che ci fosse questa continua facilitazione fiscale. Mm. No? Also, es ist so, die Hauptunterstützung bildet Zollunion. Italien hat für Baumwollprodukte mit den höchsten Zolltarifen in Europa, das ist ja ganz okay. Auch und damit wurden auch die billigeren Sachen geschützt. Was die sonstige nicht-tarifäre Unterstützung betrifft, da ist er wesentlich skeptischer. Mhm. Also Beweis ist, dass die offenbar zum Beispiel bei der Einkommensteuer, keine Einkommensteuer mehr werden würde, aber im Sinne des 18. und 19. Jahrhunderts, ständige Streitereien zwischen dem Fiskus und diesen Unternehmen bestanden haben, was seines Erachtens indirekt beweist, dass also zumindest eine gezielte Unterstützung nicht stattgefunden hat. Die haben sich selbst unterstützt, indem sie möglichst den Steuerbezahler verloren. Aber das ist ja der ganz Punkt. Der Bündnis ist vielleicht dabei, wenn es da ja anzumachen. Ja. Gut, okay. Adesso, chi era? Wer hat noch mehr? Volevo solo dire qualcosa a proposito del passaggio dalla